Angelica s'arresti e per Alcina. Astolfo, ahimè, ove sino? Ti piazzi in vittima sfortunata al furor di colei. Nulla può in me, che in mio potere ho i dei. Ma Orlando, il sano e scorre. Lo so, l'alato destriero contumace fu cui credea trar dallo spec' Orlando. Nulla la man, nulla temendo il morso, mi porta a sua balia. Qualche varcata alla region dell'aere la giunsi, ove non arde eterno il fuoco, e spande dalla sfera una voce alta e celeste. Prendi, prendi, mi dice, in questa face lo smarrito lume della mente d'Orlando. Riporta stolpo, egli è voler divino, della ragion il lume al paladino. Orlando, Orlando, oh mio tormento! Dove sono? Chi son? Che cerco?